pronti? Dottore. Partito. Ciak. Azione. Voleva vedergli la faccia. La faccia è la cosa più importante. Dalla faccia si capisce tutto. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Io non ho paura di Gabriele Salvatores. È la storia del rapimento di un bambino vista con gli occhi e l'innocenza di un altro bambino che farà di tutto per salvarlo. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Quell'anno il grano era alto. A fine primavera aveva piovuto tanto e a metà giugno le piante erano più rigogliose che mai. Crescevano fitte, cariche di spighe, pronte per essere raccolte. Ogni cosa era coperta di grano. Le colline basse si susseguivano come onde di un oceano dorato. Fino in fondo all'orizzonte, grano, cielo, grilli, sole e caldo. Non aveva idea di quanto faceva caldo. Uno a 9 anni di gradi centigradi se ne intende poco, ma sapeva che non era normale. Ad Acqua Traverse gli adulti non uscivano di casa prima delle 6 di sera. Si tappavano dentro con le persiane chiuse. Solo loro si avventuravano nella campagna rovente e abbandonata. Sua sorella Maria aveva 5 anni e lo seguiva con l'ostinazione di un bastardino tirato fuori da un canile. La mamma le dava ragione e non c'erano santi. Gli toccava portarsela dietro. Nessuno si era fermato ad aiutarla. Normale, era una gara. Maria! Maria! Peccato, era terzo. Primo era Antonio, come sempre. Antonio Natale, detto il Teschio. Il Teschio era il più grande della banda, 12 anni, ed era il capo. Gli piaceva comandare e se non obbedivi diventava cattivo. Secondo era Salvatore. Salvatore Scardaccione, aveva 9 anni, la sua stessa età. Stavano in classe insieme, era il suo miglior amico. Salvatore era più alto di lui. Il padre, l'avvocato Emilio Scardaccione, era una persona importante a Roma e aveva un sacco di soldi in Svizzera. Questo si diceva. Poi c'era lui, Michele. Michele Amitrano. E anche quella volta era terzo. Stava salendo bene, ma per colpa di sua sorella adesso era fermo. Se non si sbrigava, lo sorpassava pure Barbara Mura. Sarebbe stato orribile, sorpassato da una femmina. Sono passati di qui. C'è una casa. Era l'ultimo. Sperava solo che il Teschio non gli facesse scontare una penitenza troppo dura. Compri me. Finalmente ce l'hai fa. Mia sorella si era fatta male. E gli altri? Sono andati giù. Avevano seguito le tracce che portavano verso l'altro versante della collina, fino a una casa abbandonata, con il tetto tutto sfondato, le tegole marroni e le travi scure. E chi ha vinto? Chi ha vinto? Il Teschio. Il Teschio era seduto su un cassone dell'acqua. Tirava sassi contro un bidone arrugginito e li osservava dicendo... Questo posto è mio. Come è tuo? È mio perché l'ho visto per primo. Chi fa allora la penitenza? Si era preso tutto il tempo per rispondere. Poi indicò Barbara. E Barbara cominciò a dare calci nella polvere. Non è giusto, tocca sempre a me. Rifacciamo la votazione, ma non può decidere sempre tutto lui. Ferma! Disse Filippo. La faccio io. Io sono arrivato per ultimo. Il Teschio gli andò incontro dicendogli che la penitenza era nel salire al primo piano della casa abbandonata. Entrare, attraversarla tutta e dalla finestra in fondo saltare sull'albero e scendere. Michele prese il coraggio in mano e fece la penitenza, senza intoppi, fino alla finestra. A terra c'erano un lavatoio di cemento crepato, il braccio arrugginito di una gru, mucchi di calcinacci coperti di edera, una bombola del gas e un materasso. Adesso attaccati al ramo e scendi giù. Michele salì in piedi sul davanzale, si fece il segno della croce e si lanciò in avanti come un gibbone della foresta amazzonica. Atterrò di schiena su una cosa soffice, il materasso. Mosse i piedi e scoprì che sotto le foglie, i rametti e la terra c'era un ondulato verde, una tettoia di plastica trasparente. Era stata ricoperta come per nasconderla e quel vecchio materasso c'era stato appoggiato sopra. Era stato l'ondulato a salvargli la vita. Si era piegato assorbendo la caduta, quindi sotto doveva essere vuoto. A carponi Michele spinse in avanti la lastra. Il buco era largo un paio di metri e profondo due metri e mezzo. Era vuoto. No, c'era qualcosa. Una grotta piena d'oro e di pietre preziose. Un mucchio di stracci appallottolati? No. Un animale? Un cane? No, cos'era? Era senza peli, bianco. Una gamba, una gamba! Fece un salto all'indietro, una gamba. Le orecchie gli diventarono bollenti, la testa e le braccia che gli pesavano. Stava per svenire. Doveva prima guardare un'altra volta. Si avvicinò e sporse in avanti la testa. Era la gamba di un bambino. E un gomito spuntava dagli stracci. In fondo a quel buco c'era un bambino. Era steso su un fianco. Aveva la testa nascosta tra le gambe. Non si muoveva. Era morto? C'era anche un secchio e un pentolino. Forse dormiva. Il teschio lo stava chiamando. Michele afferrò la lastra e la tirò fino a tappare il buco. Poi sparpagliò le foglie e la terra e ci rimise su il materasso. Non avrebbe detto niente a nessuno. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti. Davanti a casa c'era il camion del papà, un lupetto Fiat con il telone verde. A quel tempo il papà faceva il camionista e stava fuori per molte settimane. Prendeva la merce e la portava al nord. È arrivato papà! Aveva promesso che una volta li avrebbe portati tutti al nord. Michele non riusciva tanto bene a immaginarsi questo nord. Sapeva che il nord era ricco e che il sud era povero. E loro erano poveri. Bella di papà, vieni qua, dai un bacio a papà. E allora, dove siete stati? A giocare, al torrente. Ma quando resti? Resto un po'. La mattina dopo, Michele con la sua scassona prese la via dei campi, quella che costeggiava la collina e raggiungeva la valle. Più si avvicinava alla casa abbandonata, più un peso gli schiacciava il petto, togliendogli il respiro. E se arrivava su e c'erano le streghe o un orco? nascosto sotto la lastra e il materasso, ci stava al buco. Non se lo era sognato. Era buio e pieno di mosche e saliva una puzza nauseante. Michele aspettò un po', poi prese un sasso e lo tirò addosso al bambino, colpendolo su un piede magro e sottile, con le dita nere. Un piede che non si mosse di un millimetro. Voleva vedergli la faccia. La faccia è la cosa più importante. Dalla faccia si capisce tutto. Con una corda Michele scese nel buco. «Io non ho paura di niente», si sussurrò per farsi coraggio. Ma le gambe gli cedevano e una voce nel cervello gli urlava di non andare. «I morti non fanno niente», si diceva. Dentro faceva più freddo. La pelle del morto era sudicia, incrostata di fango. Michele gli toccò la mano con la punta del piede e sollevò la coperta che gli copriva le gambe. Intorno alla caviglia destra aveva una grossa catena chiusa con un lucchetto. La pelle era scorticata e rosa. Voleva vedergli la faccia, ma non voleva toccargli la testa. Gli faceva impressione. A un tratto il morto sollevò il busto come fosse vivo e a occhi chiusi allungò le braccia verso di lui. I capelli gli si rizzarono in testa. Michele fece un urlo infernale, saltò indietro, inciampò e finì di schiena a terra urlando. Per il pranzo papà era seduto a tavola accanto a sua sorella. Aspettavano che la mamma scolasse la pasta asciutta. Michele corse in bagno, si sfregò bene le mani con il sapone, si fece la riga a destra tra i capelli e li raggiunse mentre la mamma riempiva i piatti di pasta. Tra qualche giorno viene a stare una persona qua. Perciò niente storie, niente lagne. È chiaro? Era la prima volta che veniva uno a stare da loro. E chi è questa persona? Un amico. E come si chiama? Sergio. Michele si svegliò presto, si lavò i denti e si riempì la cartella con del formaggio e del pane. Sfrecciava nella campagna deserta sulla scassona, diretto alla casa abbandonata. Era quasi arrivato quando sull'orizzonte apparve un polverone rosso. Basso, veloce, una nuvola che avanzava nel grano. Il polverone che può fare una macchina su una strada di terra cotta dal sole. Michele si nascose senza respirare, senza muovere un muscolo. Vide sfilare davanti una 127 marrone. La 127 di Felice Natale. Felice Natale era il fratello maggiore del teschio. E se il teschio era cattivo, Felice lo era mille volte di più. Quando fu sicuro di essere solo, uscì dal bosco e tornò a casa. Quella notte Michele si svegliò perché gli scappava la pipì. Sentì la voce del papà in cucina. C'era gente. Discutevano, si interrompevano, si insultavano. Ma che dicono a Milano? Che caso è che dicono a Milano? Scusate, ci avevano detto che sta storia finiva a prima. Sono già dei mesi. E che succede? Non si capisce. Tu non devi capire niente. Voi meno pensate, meno cazzate fate, va bene o no? Chiedere il suo tempo. Ci vuole il suo tempo. Chiedere il 6 mesi. Ci vogliono 6 mesi. Che 6 mesi? Sì, 6 mesi, un anno, quello che ci vuole. Sì, no? Un cucazzi, che hai per anno? Scusate, ma perché non ci dicono niente? Tu non devi sapere niente. Di alter, che vi dua, detenì, nascosto il piede, va bene o no? Tenere nascosto il bambino, va bene? E stare calmi. Il papà era molto arrabbiato. Il suo camion era posteggiato accanto a una grande macchina scura con il muso argentato. Una macchina per ricchi. Michele si avvicinò alla porta. Erano seduti a tavola. Italo Natale, il padre del teschio, Pietro Mura, il barbiere, Angela Mura, Felice, il papà e un vecchio che non aveva mai visto. Doveva essere Sergio, l'amico del papà. C'era odore di pomodoro, sudore e zampirone. La mamma preparava il caffè. Avete fatto una cazzata dietro l'altra. Questo qua è il più rimbambito di tutti, questo qua. Ve l'ho detto, non siete capaci. Ma da sta calma. Ma che calma? Quelle non pagano. Dici che ai cartucci non ci vengono i soldi dal culo. Vattene, tutto puttanato. Te taci. Che te sei peggio di tutti qua. E sai perché? Perché pensi? Io? Sì. Affanculo, va. Il grande esperto del mio cazzo. Tu sei un deficiente, ecco cosa sei, te lo dico io. Suo papà cercò di rispondere, poi ingoiò il boccone e abbassò lo sguardo. Oh, ho dalle giornate. Vieni qua, vieni. Al secondo. La mamma si precipitò sulla manopola del volume e poi sull'interruttore. Nella stanza calò la penombra. Tutti si girarono verso il televisore, come quando giocava l'Italia. Il giornalista parlava di uno scontro tra due treni avvenuto vicino a Firenze. C'erano stati dei morti, ma a nessuno importava. Forse manco oggi ne parla. Anche ieri, non ne hanno parlato. Allora, non si sente niente. Ecco. Ovviamente in tutta la regione continuano senza sosta le ricerche del piccolo Filippo, sequestrato a Milano. I carabinieri e gli inquirenti stanno seguendo una nuova pista che sembra portare a buoni risultati. Michele allungò il collo oltre il divano e per poco non gli prese un colpo. Dietro il giornalista c'era la foto del bambino. Il bambino nel buco. Era biondo, tutto pulito, tutto pettinato, tutto bello, con una camicia a quadretti. Sorrideva e tra le mani stringeva la locomotiva di un trenino elettrico. Il bambino si chiamava Filippo, Filippo Carducci. Trasmettiamo ora un appello della signora Luisa Carducci ai rapitori, registrato questa mattina. E mo' questo che cazzo vuole? Sono la madre di Filippo. Mi rivolgo ai sequestratori di mio figlio. Vi imploro, non fategli del male. È un bambino buono, educato, molto timido. Vi imploro di trattarlo bene. La cifra che avete chiesto è molto alta, anche per la nostra famiglia. Vedrai che i soldi li cacciano. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare il denaro. E lo penso. Due orecchie gli tagliamo. Vi supplico, non fategli del male. Michele pensò che erano stati papà e gli altri a prendere il bambino a quella signora della televisione. Quei ragni pelosi, quei tassi barbassi, lumache bavose e ciechi orbettini, le state lontane dei nostri bambini, quei bestie notturne, amanti del buio, voi che non dormite se non al mattino, vegliate sul sonno di questo bambino. La mattina Michele prese la bicicletta per andare da Filippo. Filippo teneva la testa avvolta nella coperta. Non si era neanche accorto che Michele era sceso nel buco. La caviglia sembrava peggiorata. Era più gonfia e viola. Le mosche ci si avventavano sopra. Tu ti chiami Filippo, vero? Tua madre dice che ti vuole bene e che le manchi. L'ha detto ieri alla televisione. E ha detto di non preoccuparti. Mia mamma è morta. Cosa? Non è vero, mia mamma è morta e anche il mio papà e anche la nonna sono tutti morti e vivono nei buchi. Gli erano diventati tutti i denti neri. Michele si tolse la maglietta, la bagnò con l'acqua e cominciò a pulirgli il viso. Dove passava rimaneva la pelle bianca, così bianca che sembrava trasparente come la carne di un pesce bollito. Prima sulla fronte, poi sulle guance. Non aveva la catena, era libero. A un tratto a Michele venne un'idea, una grande idea. Poteva portarlo fuori. Senti, mi è venuta in mente un'idea. Ti va di uscire? Uscire dove? Fuori. Fuori dove? Fuori dal buco. Quale buco? Questo buco qui, qui dentro, dove siamo. Questo non è un buco. E che cos'è? È il posto dove si sta quando si muore. Senti. Io non so come fartelo capire. Questo è un buco per terra. Fuori c'è l'aria, ci sono i campi, c'è tutto. Dai, andiamo. Provò a metterlo in piedi, ma teneva le gambe piegate, non si reggeva. Provaci, no? Almeno provaci. Non ce la faccio. Non posso. Solo un attimo. Fa male. Dai, prova. Michele stava per sollevarlo di nuovo quando alzò lo sguardo. Sul ciglio del buco c'era uno con un cappuccio marrone in testa. Era vestito tale quale a un soldato e imbracciava il fucile. Cucù! Ah, l'aprile non c'è più. E mo' è ritornato omaggio al canto del cucù. Era Felice, il fratello del teschio. Ma sta male. Porca la puttana, era Michelino. Con ogni cazzo di volta trovava tutte le cose messe diverse. Ehi! Lo volete far scappare? Bravo! Alzate, pessacchio, taut! Camì! Felice prese Michele per i pantaloni e con tutte e due le mani lo lanciò per terra come un sacco. Si era tolto il cappuccio e avanzava verso di lui a passo di carica, puntandogli il fucile contro. Con la canna del fucile, Felice spinse Michele dentro la 127. Seni pesanti e labbra rosse e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti. E mio padre, sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie. Era notte, la mamma non c'era. La sorella Maria gli dormiva accanto. L'orologio ticchettava sul comodino. Le lancette brillavano di giallo. La luce bianca della cucina si incuneava sotto la porta. Di là stavano litigando. Era pure arrivato l'avvocato Scardaccione, da Roma. Era la prima volta che veniva a casa. Quel pomeriggio erano successe cose terribili. Così terribili, così immense, che non ci si poteva nemmeno arrabbiare. Michele! Svegliati, Michele! Suo papà stava seduto sul bordo del letto e gli scuoteva la spalla. Che hai fatto oggi? Niente. Non dire fesserie. Felice ha detto che stavi da quello e che lo volevi liberare. No, te lo giuro. L'ho tirato fuori e l'ho rimesso subito dentro. Quante volte t'ho visto? 3. Quante? 4. Ascoltami bene, non sto scherzando, Michele. Stammi a sentire. Se tu torni di nuovo là, io ti ammazzo di botte. Eh? Se tu torni là, quelli gli sparano in testa. E la colpa è tua. Non ci torno più, te lo giuro. No, devi dire giuro sulla testa di mio padre che non ci torno più. Giuro sulla testa di mio padre che non ci torno più. Il papà rimase in silenzio, seduto vicino a lui. In cucina il padre di Barbara urlava con Felice. Papà, mi dici una cosa? Che cosa? Perché l'avete messo lì dentro? Non lo riesco a capire. Ci sono cose, Michele, che sembrano sbagliate quando uno... Non ci pensa, Michele. Dimentica tutto. Dormi, dai. Il papà baciò in testa Michele e Maria, che neanche se n'era accorta. Dormi. E uscì dalla stanza chiudendo piano la porta. Erano svegli. e tutto era velato di grigio. Faceva caldo, era umido e sbuffi improvvisi d'aria smuovevano l'afa. Il teschio diede un calcio al pallone e lo spedì dall'altra parte della strada. Uffa! Che facciamo adesso? Perché non andiamo al posto dell'altra volta? Dove? Alla casa abbandonata. Vicino alla campagna di Candino. Che ci andiamo a fare lontano? E se si mette a piovere? E se si mette a piovere? Ci bagniamo. E poi a te. Nessuno ti ha chiesto niente. Un tuono lontano lacerò il silenzio e la pioggia iniziò a scendere formando rigagnoli d'acqua. Andiamo, io ci vado. Chi vuole venire viene. Se non si fanno gare. Niente gare. Michele, tu che fai? Ci vai? Arrivati alla casa abbandonata, Michele fece il giro passando tra i rovi. Il cuore gli batteva e la pioggia scendeva a catinelle. Il buco era aperto. Non c'era più la lastra e nemmeno il materasso. Non c'è più. Io lo so dove sta. Disse Salvatore. Dove sta? Dimmelo. Se te lo dico dobbiamo fare pace. Dimmelo! Quando ne sono al candela, sotto, nelle grotte là vicino. Un rombo assordante, un frastuono metallico spezzò la quiete e coprì tutto. Da dietro la collina apparvero due elicotteri, due libellule di ferro, due grosse libellule blu con scritto sui fianchi carabinieri. Si abbassarono e i ragazzi cominciarono a sbracciarsi e a urlare. Gli elicotteri si affiancarono, girarono nello stesso momento come se volessero far vedere quanto erano bravi, poi scomparvero all'orizzonte. Diventare grande mai non serve a niente, sai. Continua a crescere più che puoi, ma non fermarti mai. E continua a giocare, a sognare, a lottare, non t'accontentare di seguire le stanche regole del branco, ma continua a scegliere in ogni momento, perché vedi, l'avere ragione non è un dogma statico, una religione, ma è seguire la dinamica della storia e mettersi sempre in discussione. Perché sai, non basta scegliere d'avere un'idea giusta, assumerne il linguaggio ed il comportamento, ma poi dormire dentro. E il tuo dovere è di migliorarti, di stare bene, di realizzarti. Cerca di essere il meglio che ti riesce, per poi darti agli altri. E a ognuno secondo il suo bisogno, e da ognuno a seconda della sua capacità. E anche se oggi potrà sembrare un sogno, da domani può essere la realtà. Da domani deve essere la realtà. Dai, veloce. Dai che tardi. A letto, su. Ma non abbiamo mangiato niente. Era notte fonda. La stanza era buia. Michele e Maria erano in camera svegli come grilli. Ma tu? Chi cazzo ti crede di essere? Ma che testa avete? In cucina urlavano tutti. Il bambino va eliminato. È chiaro? Voi siete dei contadini del cazzo. Michele cercava di capire che dicevano, ma le voci si mischiavano. Il vecchio sedette su una sedia. Sollevò la testa, guardò fisso, felice, e disse con voce ferma. Ma te non eri quello coraggioso, eh? Tu sei un culattone. Prova a mettermi ancora le mani addosso. Ti fai vedere come le faccio, fammi il blues in mezzo alla testa. La pistola, togli così. E togli, che cazzo? Avete rotto i coglioni! Felice si fece avanti a testa bassa. Il papà di Michele e il barbiere cercarono di trattenerlo, ma lui se li scrollò di dosso come forfora e si avventò di nuovo sul vecchio. Questo tirò fuori la pistola dai pantaloni e gliela appoggiò sulla fronte. Dai, dimmi il bello addosso ancora, dai, toccami ancora. Dai. Oh, mi è venuta un'idea. Facciamo come i soldati in guerra, per decidere chi deve fare le missioni mortali. Uno deve scegliere un fiammifero. Disse il barbiere mettendosi una mano sulla fronte. Il papà di Michele prese una scatola di fiammiferi e la mostrò a tutti. Sì. sembra un angelo caduto dal cielo. Come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Michele decise di andare da Filippo. Nel buio trovò la maglietta e i pantaloni e se li infilò. Salì sul letto e da lì sul davanzale. La strada era tetra come quella notte senza stelle. Corse dietro la casa per prendere la bicicletta. Era quasi arrivato. Frenò. Il vento non c'era più. L'aria era ferma e calda. Dalla gravina poco distante arrivava il suono dei grilli. Scese dalla bicicletta e la buttò tra i rovi accanto alla strada. Non si vedeva niente. La casa era a un centinaio di metri. Dove poteva stare Filippo? Giù nella gravina, aveva detto Salvatore. Era tutto rocce, buchi e pareti di pietra. Michele cominciò a correre avanti e indietro tra le rocce e gli ulivi a caso. Mentre gli pigliava la disperazione, a un certo punto vide dei pali accatastati che nascondevano alla buona un'apertura nella roccia. Una bocca ovale, larga come la ruota di un camion. Era nero come la pece e c'era odore di legna bruciata e cenere. Non capiva quanto fosse profondo. Ci infilò la testa e chiamò. Filippo! Filippo! Michele fece tre passi quando ebbe l'impressione di sentire un lamento, un gemito sordo. Tornò indietro e infilò di nuovo la testa nel buco. Filippo, sei tu? Filippo! Era lì. Michele sentì come un peso che si scioglieva nel petto. Si appoggiò alla roccia e scivolò giù. Lo aveva trovato. Gli veniva da piangere. Si asciugò gli occhi con le mani. Filippo, come stai? Stai male? Dai, che ora ce l'andiamo. Mettiti su. Tirati su. Si calò dentro. Il cuore pompava così forte da fargli tremare il petto e le braccia. Filippo era sotto le fascine. Gliele tolse di dosso e lo tastò. Era steso a terra, nudo. Aveva le braccia e le gambe legate con lo scotch da pacchi. Michele gli mise le mani sulla faccia. Anche sulla bocca aveva lo scotch. Dai Filippo, che non ce la faccia, ti prego! Provò a slegargli i polsi e le caviglie. Era stretto. Alla fine, con i denti, disperato, cominciò a segare lo scotch. Gli liberò prima le mani e poi i piedi. Gli prese un braccio, ma il braccio ricadde senza forze. Michele cercava di tirarlo su, ma ricadeva giù come un burattino. Non c'era più un briciolo di energia in quel corpicino esausto. Non era morto solo perché continuava a respirare. Non sapeva che fare. Filippo, non lo capisci? Non lo capisci che se rimani qui ti sparano? Io sono venuto a salvarti! Alzati! Alzati! Stupido! Per un istante Filippo smise di ansimare e bisbigliò qualcosa. Non ce la faccio. Che hai detto? Non ce la faccio. Michele lo abbracciò. Non ce la faceva più neanche lui. Si sentiva stanco da morire, stremato. Niente scuse, ce la devi fare, capito? Capito? Era buio, poi sentì un cane abbaiare e delle voci. Erano arrivati. Michele strattonò Filippo. Ora devi salire, io ti spingo da sotto, ma tu ti devi tirare su. Michele si inginocchiò e con le mani spinse Filippo in avanti. Doveva portarlo fuori da quel buco. Le voci erano vicine e un bagliore balenava sulle fronde degli alberi. Lo prese per le braccia. Dai, che stanno arrivando. Lo tirò in piedi e lui gli si aggrappò al collo. Forza. Michele lo abbracciava come fosse un fantoccio. Ora le voci sembravano lì. Il cane abbaiava sopra la testa dei ragazzi. Bravo, salta adesso. Ho paura. Salta, stanno arrivando. Salta, devi saltare. Se Michele lo avesse lasciato, Filippo sarebbe caduto a terra. Era su di lui e gli poggiava i piedi sopra le spalle. Bravo, sei stato molto bravo. Vieni, ti aspetto. No, devi andare via. Vattene via, vattene, vattene via. Filippo fece di sì con la testa e scomparve. Michele provò ad arrampicarsi, ma era troppo in alto. Attraverso il buco vide suo papà. In una mano teneva una pistola, nell'altra una pila elettrica. Aveva perso la scommessa su chi sarebbe andato, come al solito. La luce che filtrava dal buco accecò Michele, che chiuse gli occhi. Poi ci fu il bianco. Michele aprì gli occhi. La gamba gli faceva male. Il dolore era una pianta rampicante. Un filo spinato che gli si attorcigliava alle budella. Una cosa travolgente, rossa. Una diga che si è rotta. Niente può arginare una diga che si rompe. Un rombo montava, un rombo metallico che cresceva e copriva tutto e gli pulsava nelle orecchie. Michele era bagnato. Si toccò la gamba. Una cosa densa e calda lo impiastricciava tutto. Apri gli occhi, papà. Oh, Michele! Michele, guardami. Non aver paura, Michele. Michele, apri gli occhi. Apri gli occhi, Michele. Guardami. Michele! Fino! Non aver paura. Sta. Fino! Non c'è! È scappato! Parla, Michele. Parla. Ehi. Scusa, Michele. Scusa. Non ti ho riconosciuto. Non ti avevo riconosciuto. Pino, non lo trovo più, non lo trovo più, è scappato. Pino, lascialo stare, dai, non si è fatto niente, quell'altro è scappato. Devi ammazzare il figlio, devi ammazzare il bambino, devi ammazzarlo. Il papà teneva Michele tra le braccia, parlava ma lui non lo sentiva. I capelli gli brillavano mossi dal vento, tante luci lo accecavano, dalle tenebre spuntavano esseri neri e cani, andavano verso di loro. Michele aprì di nuovo gli occhi. Il papà piangeva, lo accarezzava, le mani rosse. Una figura scura si avvicinò a loro. Papà lo guardò. Ora c'era di nuovo buio. E c'era il papà. E c'era Michele. Testo tratto da Io non ho paura di Niccolò Ammanniti, edizioni Einaudi. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.